24 di Giovanni Minoli. Ecco, inizia oggi in Parlamento, in Commissione Bilancio, la commissione presieduta dall'onorevole Francesco Boccia, l'esame del documento di economia e finanza, il DEF. Buongiorno onorevole Boccia. Buongiorno. Ecco, Padoan, ministro dell'economia, dice: c'è una manovra per crescere ma con risorse limitate. Sta mettendo le mani avanti? Un po' sì, perché la grande maggioranza delle risorse vengono assorbite dalla clausola di salvaguardia, che sarebbe l'aumento dell'IVA per 15 miliardi sul 2017. Ah. Restano altri 5-6 miliardi. Poca roba. Ecco, Padoan ha anche detto che il sì al referendum sarebbe una spinta alla rinascita del paese. Lei è d'accordo, no? Sul piano economico ho detto una sciocchezza. Può migliorare il funzionamento delle istituzioni se la riforma funziona, ma con la crescita non c'entra nulla. Senta, tutti gli istituti di statistica parlano del PIL, del più 0,8 come aumento per il PIL. Padoan e Renzi invece dicono più 1. Saranno smentiti dai fatti? Spero per loro di no. Io ho detto più volte che l'1% non c'era, lo dicono anche la Commissione Europea, il Fondo Monetario Internazionale, gli istituti anche italiani come Confindustria, si sono spinti a mio avviso un po' troppo in là. Troppo in là, il che significherebbe? Il che significherebbe che... Previsione sbagliata, sì. L'ultimo ad aver centrato le previsioni di ministri dell'economia è stato Tommaso Padoan-Schioppa nel 2007. Dieci anni che si sbagliano tutti. Che diciamo in autunno le previsioni vanno a nord-est, i grafici, e in primavera tornano a sud-ovest. Capito. Senta, intanto oggi che cosa significa la riunione al Tesoro, una riunione abbastanza improvvisa delle grandi banche? Cosa si teme? E in relazione con la Deutsche Bank, che cosa si teme? Il ministro dell'economia di solito si raccorda, diciamo, con gli attori che contano il sistema economico finanziario. Devo dire, in passato non è che le riunioni con le banche abbiano dato grandi frutti. Come lei sa, io ho criticato la politica sulle banche fatta dal ministro Padoan al primo momento e non vedo ancora... E quindi questa riunione è di routine oppure è speciale? No, penso che valuteranno i passi che insieme si devono fare. Tenga conto che ci sono altri aumenti di capitale che secondo me il mercato non assorbirà e che qualcuno deve garantire. Tipo quali? Quelli del Monte dei Paschi? Quello del Monte Paschi, sì. Senta, per il momento è stato comprato tempo sul Monte. È stato comprato tempo. Onorevole Boccia, senta, ma è vero che c'è uno scontro in atto tra Renzi e Padoan sul DEF, sul rapporto da avere con l'Europa? Tanto dovreste chiederlo a loro. Io penso che lei mi sembra abbastanza interno a queste cose. Sì, io penso che ci siano visioni diverse che però alla fine non hanno prodotto una... Insomma, nessun rischio di rottura, non rischi di rottura, non le vede. Mi pare il ministro Padoan concavo e convesso. Alla fine abbozza. Senta, intanto Padoan dice risorse limitate per lo sviluppo, l'abbiamo detto. Però Renzi dice facciamo il ponte sullo stretto. Lei è d'accordo? Guardi, se chiunque ci ascolta e vive in Sicilia o ama la Sicilia, sa che per andare da Trapani a Messina in questo momento, se va sul sito Ferrovie dello Stato, trova, diciamo, 5 cambi e 9 ore e 22 minuti. Ma le sembra una priorità per i siciliani o per i calabresi il ponte sullo stretto? Sarebbe meglio mettere a posto le ferrovie, dice. Penso proprio di sì, le ferrovie che sono davvero da far west. Si è possono fare insieme le due cose, no? Ci fossero i soldi, sì. Siccome non ci sono, io partirei dalle ferrovie. Ma quanto dovrebbe pagare lo Stato comunque di penali se non si fa il ponte di Messina? Quasi 1 miliardo, credo, no? Meno di 1 miliardo per responsabilità che a mio avviso dovrebbero essere accertate, perché io le farei pagare a chi ha sbagliato. Vabbè, però storia. Insomma c'è sto miliardo che balla. Però il ponte costa 4, non capisco. Ne mancano 3. Per darne uno se ne spendano 4, almeno si fa un ponte. Senta, ma il ponte incide sul DEF? Non mi ripari. In questo DEF no, assolutamente. Senta, no. Nel DEF ci sono soldi per le pensioni, ma la disoccupazione giovanile è al 38%, 39% quasi. Quella tra i 50 e i 60 anni invece è al 6%. Quindi è un paese che sceglie i vitalizi contro la produzione, No, è un paese che purtroppo ha scelto la protezione di alcune generazioni che se la sono suonate e cantate da soli, e gli altri contro le altre. C'è una generazione di politici, in questo momento i vitalizi non ce li ha, non se ne parla mai, però è la verità, c'è stato il cambio di passo anche dentro le istituzioni. Però sì, cioè, ci sono i protetti in Italia e i non protetti coincidono con i ventenni, i trentenni e i quarantenni. Senta, Renzi dice ridurremo l'IRPEF solo nel 2018, ma perché pensioni subito e sviluppo fra due anni? Non era meglio ridurre l'IRPEF piuttosto che dare gli 80 euro che in realtà i consumi non li hanno rilanciati? Non c'è dubbio, la mia posizione. Cioè meglio il DEF subito? Avrebbe avuto molto più senso ridurre l'IRPEF. Se hai 10 miliardi a disposizione li metti in riduzione dell'IRPEF, se hai altri 10 miliardi l'anno successivo li rimetti in riduzione dell'IRPEF e dopo 4-5 anni puoi dire di aver ridotto l'IRPEF. La politica economica è da maratoneti, non è da centometristi. Senta, intanto il DEF prende atto del calo della produttività, meno 1,1%, cioè l'Italia è un paese quasi che sceglie la deindustrializzazione, si può dire. L'Europa purtroppo è in deindustrializzazione da alcuni anni. L'Italia, come devo dire anche Francia e Spagna, in parte anche la Germania, hanno la colpa di non aver intercettato la rivoluzione capitalistica attuale, che è quella connessa al digitale. La nostra industria si avvale poco di digitale. Senta, Renzi dice di voler uscire dall'austerità, però in realtà il debito pubblico è aumentato di 80 miliardi negli ultimi 7 mesi. Dov'è l'austerità? È aumentato perché... Quindi austerità non c'è? Non è vero? Non si parla di austerità? Stupidi, ci sono vincoli stupidi di bilancio che determinano la non crescita. Ma secondo lei, onorevole Boccia, scusi, per essere semplicissimi e chiari, qual è il punto più critico del DEF? Perché per adesso sono tutti critici, mi pare che lei è abbastanza critico. Il punto più critico della nota di aggiornamento al DEF è la mancanza di coraggio. In questo momento era necessario avere coraggio sugli investimenti pubblici e sulla spending review. Cioè, di si è scelto, non c'è niente, si è scelto per il voto, insomma, diciamo, è un DEF elettorale. Di andare avanti, cioè è una nota di aggiornamento al DEF che diciamo non dovrebbe, secondo me, saltare né gli entusiasti a prescindere né i critici. Cioè non c'è niente da criticare, perché è un documento ordinario. Senta, ma sulla Deutsche Bank adesso c'è stato un accordo, sembra, con la giustizia americana per ridurre la multa dei 14 miliardi. La Merkel dice risolverà tutto il mercato, lei ci crede? No, assolutamente no. Quindi interverrà lo Stato? Quando i tedeschi hanno avuto gravi difficoltà io penso che debba intervenire anche lo Stato nella vicenda del sistema bancario anche in Italia. E nel Monte dei Paschi che facciamo? Regaliamo le banche americane? No, io penso che sia stato un grave errore mettersi nelle mani di JP Morgan, tra l'altro a costi altissimi e con la garanzia dello Stato, perché poi garantisce lo Stato finanziariamente. Lo Stato garantisce e JP Morgan guadagna, diciamo, detto in parole povere. Visto che lo Stato ci mette le garanzie, se ci avesse messo anche i soldi, quelli veri, con Cassa Depositi e Prestiti, e avrebbe deciso... A JP Morgan avrei chiesto i soldi esattamente come li abbiamo chiesti alle banche italiane che li hanno messi dentro Atlante, ma sono insufficienti perché servivano e servono dai 12-15 miliardi e ne sono stati messi 4. Senta, onorevole Boccia, le quattro banche, Banca Marche, Banca Etruria, Cari Chieti, Cari Ferrara, dovevano essere vendute entro il 30 settembre dopo che sono state ripulite. Non lo sono state, perché? Cioè, come mai non c'è la corsa a comprare banche ormai libere da sofferenze? Perché è cambiato il mercato, perché per 30 anni abbiamo vissuto in un paese che pagava le banche tanto al chilo e si pesavano gli sportelli. Oggi siamo in un mondo in cui gli sportelli non servono più, si fa tutto online, in rete. Certo. Barclays è scappata dall'Italia vendendo quasi 100 sportelli e pagando chi comprava, che è una cosa rivoluzionaria. E quindi non le comprerà nessuno queste banche? No, le comprerà qualcuno a condizioni zero, purtroppo sì, molto diciamo limitate, sì, onerose per chi sta vendendo. Senta, lei vota sì al referendum o aspetta la riforma della legge elettorale promessa da Renzi? No, voto sì, l'ho già spiegato nel partito, non è la mia riforma. Vabbè, lo dica anche a me. No, nel senso che non è la mia riforma costituzionale. Vabbè, ok, non, però vota sì, penso, d'accordo. Penso che l'organizzazione dello Stato 70 anni dopo debba essere cambiata. Vabbè, adesso detto diciamo, questo, vota sì. Detto questo, sottolineo una cosa. Cioè, se vince il no non muore nessuno, se vince il sì è meglio. Dobbiamo sforzarci di far sì che questa sia la Costituzione degli italiani. Ma, per il momento sembra la Costituzione di alcuni contro altri. Senta, ha visto lo scontro tra Renzi e Zagrebelsky da Mentana? Non mi dica di no, che è una risposta diplomatica, l'ha visto di sicuro. No, glielo confesso. Ero in viaggio, l'ho visto su un tablet. Vabbè, ma se tanto il tablet, guardi, il futuro e il passato sul tablet, stia tranquillo. Sì, perché peccato che le linee in Italia siano perse. Insomma, l'ha visto poco e male, mi vuol dire? L'ho visto poco, non male, quando la linea c'era si vedeva bene. Insomma, quindi in quel periodo lì chi ha vinto? Ha vinto l'informazione. Ci ha vinto Renzi? Mentre l'informazione Renzi è apparso più come sempre. Mamma mia. Nel corpo a corpo Renzi è apparso più efficace. Insomma, il suo è un sì convinto, mi pare di capire, con tutte le curve, le come no, dire. Sì, l'ho detto bene in Parlamento e non cambio. D'accordo. Idea, non mi piace il tipo di dibattito di clima che si è scatenato. Grazie, buon lavoro, ci risentiremo sul DEF 800 24 00 24, 349 238 6666, gli sms. Il premier Viktor Orban ha detto: comunque vadano le cose, l'Ungheria deve essere fiera di essere stato il primo paese europeo ad aver affidato al giudizio dei cittadini un tema così importante come i migranti. Dando un po' per scontato l'ipotesi che il quorum non venga raggiunto, il 95% degli elettori ha votato no. Il referendum non è la fine della storia, ma l'inizio di una lunga battaglia politica. Un messaggio chiaro che i cittadini ungheresi hanno mandato a Bruxelles. E no, ha vinto, ma il quorum non c'è stato. Orban dice che farà lo stesso una legge, quindi si prospetta un periodo di grande incertezza. E la Germania, che aveva aperto le frontiere a 1 milione di siriani nel 2015, adesso fa marcia indietro. L'Est Europa sta alzando muri o vuole alzare muri e barriere di filo spinato. L'Italia ha salvato decine e decine di migliaia di rifugiati, ma adesso rischia di doverseli tenere in casa, mentre prima erano prevalentemente di passaggio. Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera. Ecco, dopo l'esito del referendum in Ungheria, e malgrado questo esito, l'Europa è salva, per la prima volta davvero è a rischio? Vedi, nel referendum ci sono due perdenti. Orban è certamente perdente perché voleva una maggioranza e non l'ha avuta, anzi ha avuto una forte manifestazione di dissenso da parte dell'opinione pubblica. Però un altro sconfitto è l'Europa, certo, perché non c'è dubbio, chi ha votato contro l'Europa. E in modo assoluto, perché sono oltre il 90% insomma di quelli che hanno. Ecco, ma l'Unione Europea stava studiando sanzioni contro l'Ungheria, appunto, e quindi contro Orban. Ci saranno lo stesso o non ci saranno? Ovviamente non ci saranno. Ma la minaccia delle sanzioni sarà un deterrente comunque in qualche modo per gli altri paesi oppure no? Se la domanda è sulle sanzioni, io sono sempre stato molto contrario. Sì. Perché da un lato sono una manifestazione di impotenza. Certo. Se io passo alle sanzioni vuol dire che non sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo con altri mezzi. E in secondo luogo perché creano uno stato d'animo vittimista nel paese colpito, ecco, che in qualche modo finisce per conquistare consensi per il maggiore responsabile dell'evento di cui si parla. Ecco, comunque siamo passati dall'inno alla gioia con cui venivano accolti i rifugiati nella stazione di Monaco ai muri dell'Ungheria. Non hanno cambiato il mondo. Perché? I piccoli paesi naturalmente hanno problemi maggiori di quanto non ne abbiano i grandi paesi, ma sono anche quelli che hanno meno ragioni per protestare, perché la massa degli immigrati che arriva nel loro paese è già stata considerevolmente ridotta dal fatto che nei paesi precedenti sulla rotta viene fatto di pensare che vi sia in quella decisione il desiderio di conquistare popolarità dopo aver creato il problema, dopo aver suscitato nelle popolazioni, nelle opinioni pubbliche un sentimento di paura, certo, che naturalmente è la base su cui si costruiscono questi poteri. Ecco, ma l'ascesa del partito ultraconservatore tedesco, l'AfD, ha consigliato alla Merkel di cambiare rotta, lo farà? L'ha già fatto. Beh, in parte sì, certo. L'errore, perché quello, vede, fu certamente un errore quello del milione. Voglio dire, dare prova di liberalità e generosità era certamente un gesto positivo, ma un milione significava prendere impegni e fare promesse che non sarebbe stata neppure la Germania in grado di mantenere. Certo. Quindi fu certamente un errore. A questo punto però l'Italia si trova nell'incredibile condizione di quello che salva i rifugiati dalla morte in mare ed è destinata però a tenerseli, perché fino adesso passavano e andavano via. Che cosa dovrebbe fare Renzi? Vede, anzitutto la nostra posizione geografica ci rende unici, certo, da questo punto di vista, e non credo che ci sia molto da fare. Il vero obiettivo che possiamo realisticamente porci è quello di ricreare, ma con grandi difficoltà, la situazione che era stata creata con il Trattato di Bengasi 10 anni fa, cioè creare in Libia un luogo di sosta in cui il governo libico si abbia il compito di fare un primo sondaggio per capire quanti abbiano diritto al diritto di asilo e quanti invece debbano essere, se possibile, rinviati oppure trattenuti in condizioni a cui naturalmente deve contribuire finanziariamente l'Europa. Naturalmente, però i governi libici sono due oramai, quindi diventa più complicato identificare l'interlocutore. Se le devo dire la verità, ci sono dei problemi che non si possono risolvere se non con il tempo. Mi rendo perfettamente conto che un governo queste cose non le può dire. È una filosofia della storia che non, certo, che non prende voti. Però non c'è niente da fare. Dire, esiste ormai un fenomeno di esodo sociale importante dai paesi a sud del Sahara e a sud del Sahel, per ragioni diverse che conosciamo perfettamente, certo, il fallimento della decolonizzazione, il fatto che in quei paesi ci sono conflitti civili. Molte ragioni, ma quando Renzi dice faremo da soli, ma che cosa vuol dire? È un po' complicato. Faremo da soli mi pare che sia stata la frase più o meno felice del suo repertorio. Io credo che Renzi si batta abbastanza bene sul piano europeo, non, la situazione è difficile, non potrebbe fare nulla di diverso. Sì. Però fare da soli non ha mai, come dire, giovato all'Italia. Non è una possibilità che si è stato più volte smentito. Certo, senta, un'ultima cosa, professor Romano. I confini però sono saltati, e sono saltati di fronte a una forza inarrestabile della storia, un po' l'ha detto lei prima, che è la demografia. È così, questo mondo si è messo in movimento e questo movimento è inarrestabile, punto. Anzitutto i confini esterni sono saltati, sì, o sono gravemente a rischio, ma purtroppo all'interno dell'Unione Europea stanno nuovamente apparendo. No, appunto, dicevo, ma di fronte a questa demografia in movimento, diciamo, questi popoli che si muovono sempre, ma che questa volta si muovono in modo tumultuoso. Ma anzitutto la storia di questa immigrazione europea ha anche delle pagine molto positive. L'Italia 20 anni fa non aveva 1,5 milioni di musulmani, l'Italia 20 anni fa non aveva 500.000 albanesi e 1 milione di romeni. Se ne accorge lei davvero che abbiamo 1 milione di romeni e 500.000 albanesi e 1,5 milioni di musulmani? Leggiamo sui giornali qualche volta una realtà che non corrisponde a quella noi, di cui noi siamo testimoni nella nostra vita. Cioè lei dice l'integrazione è molto più forte di quello che sono i problemi che crea, questo vuol dire? Assolutamente, l'integrazione è molto più forte, anche perché a un certo punto questi nuovi arrivati hanno trovato il loro posto in una società perché aveva bisogno, per ragioni demografiche, calo delle nascite, certo, per esempio, di lavoro proveniente dall'estero. E io credo che alla fine molti problemi verranno risolti così, soprattutto se ricominceremo a crescere con tassi di crescita maggiori. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, ma insomma la situazione davvero strana, ha dell'incredibile, perché l'Europa subisce questa situazione. Dove è finito lo spirito europeo? È perso nella storia, ovviamente. Tu devi mettere dentro crisi del 2008, quindi crisi finanziaria, risposta insufficiente, calo dei redditi reali, pressione demografica, come giustamente dicevi tu prima, e se tu frulli tutto hai appunto l'Ungheria, l'AfD, hai Grillo in Italia, salta non lo so. Spirito che, che ha fatto nascere. Sì, posso solo aggiungere una cosa, certo, l'interpretazione del voto ungherese. Ha stravinto Orban, certo, perché Orban non puntava al quorum, non si può leggere all'italiana quel, certo, risultato. Orban puntava a tenere lontana la destra che ha al suo interno nel paese e a dividere la sinistra. 98% dei voti, 3 milioni e 300 mila no, sono una forza enorme su 8 milioni di aventi diritti al voto. Quasi quello, il 50%. È quello il punto fondamentale. E in Ungheria si vota nel 2018. Questo è lo scenario in cui leggere. Si è preparato la vittoria voto del 2018. Esattamente. Ecco, però Pietrangelo, gli ungheresi hanno beneficiato di tutti i vantaggi dell'essere in Europa, come i polacchi, come i rumeni, i cechi, i bulgari. Adesso, però, dopo che hanno incassato tutti questi miliardi, vogliono far saltare le regole del club. Insomma, devono uscire allora. Bisogna considerare che gli ungheresi, così come i cechi, i rumeni, i bulgari, sono vicende, storie legate a un passato molto complicato, molto più complicato di quanto possa essere quello degli altri paesi europei, perché vengono tutti dall'ex patto di Varsavia e hanno una forte caratterizzazione, che è quella di essere patriottici ancor più che nazionalisti. Faccio un esempio, proviamo a immaginare che nell'assetto europeo di oggi, invece che di una, ce ne fossero due di Germania, cioè che l'ex DDR, l'ex Repubblica Democratica Tedesca, avesse mantenuto la propria sovranità. Sono certo che in quell'ambito, in quel territorio, sicuramente su temi come questi, dove si sente forte il rischio di perdere la propria identità, i tedeschi dell'ex Repubblica Democratica avrebbero avuto un atteggiamento ben diverso di quello che invece l'Unione Europea vuole dalle altre realtà continentali. Infatti AfD è nata nell'est, poi si è propagata fino a Berlino, cioè era il Bundestag. E secondo me è importante sottolineare questa differenza: non sono nazionalismi, sono patriottismi, che è un concetto molto diverso, perché il patto di Varsavia ha mantenuto quasi un effetto frigorifero, ha fatto sì psicologicamente che sono congelati lì, sono rimasti fermi a un'identità. Poi l'Ungheria è un fior di storia e noi non riusciamo a capirlo. Ha ragione Mario, quello ha stravinto perché vive dentro quell'identità. Chi non è andato a votare, avrebbe votato contro Orban. Ma io leggevo i titoli dei giornali stamattina, mi sembrava di vivere in un mondo totalmente diverso da quello che è la realtà. Poi Orban ha vinto. Stravincere e cambierà la Costituzione, non nella realtà. Ma i giornali non vendono anche per quello. Ecco, con noi in linea c'è il vicepresidente del senatore del PD, membro della Commissione Affari Esteri ed Immigrazione, Alessandro Maran. Buongiorno onorevole Maran. Buongiorno. Senta, senatore, scusi. Ecco, ha sentito un po', insomma, questa vittoria di Orban letta in modo più profondo, lei condivide? Certo, anche io credo che il proposito di Orban non fosse quello di assediare Bruxelles, ma soprattutto di rafforzare il proprio consenso interno, certo, con un referendum peraltro molto dispendioso. Il governo ha speso 30 milioni di euro o qualcosa per di assicurarsi la pre-vittoria alle elezioni future. Ecco, il governo italiano intanto ha deciso di creare una superstruttura a Palazzo Chigi per fronteggiare l'emergenza immigrati, ma non basta il Ministero degli Interni, ci vuole un'altra struttura? Bisogna coordinare gli sforzi. Vabbè, ma il Ministero degli Interni non le coordina? Non le coordina, ma insomma, se si può fare di meglio, la struttura è benvenuta. Cioè, un'altra struttura è benvenuta. Ma io non ho idea quali siano le considerazioni che avranno spinto il governo. Immagino che se c'è l'esigenza di dotarsi di una struttura, avranno verificato le ragioni. Vabbè, il sindaco di Torino ha trovato il suo nuovo lavoro, d'accordo, l'ex sindaco di Torino. Senta, la gestione degli immigrati costa oltre 3 miliardi l'anno se lo scenario si mantiene così costante, ma se dovesse peggiorare si arriva anche a 4. Tanti soldi che non riusciamo, almeno finora, a tenere fuori dal patto di stabilità. Ma ci riusciremo oppure basta tenerli fuori e chi se ne frega? Beh, è evidente insomma che una battaglia non serva fatta, ma mi pare che il governo stia cercando di battere insomma i pugni sul tavolo per quel che riguarda non soltanto la questione di immigrazione, ma insomma tutte le esigenze che ci sono. Ma ecco, io volevo dire, solo accennare una cosa, perché ho ascoltato la discussione, sì. La discussione è molto interessante, perché e il tentativo è evidente, insomma, è quello di rinazionalizzare, no, le politiche europee, sì, questo è certo. Quello che sta capitando dappertutto, di referendum che mettono a rischio la stabilità regionale ce n'è uno al mese, e quando era il 25 di settembre c'è stato il referendum in Bosnia, che certo. Ripropone l'autodeterminazione serba, e quindi è un referendum che mina la stabilità dei Balcani e forse di nuovo quella dell'Unione Europea. Dove si moriva. Ecco, quello che volevo dire era questa, una cosa molto semplice. La cosa però è paradossale, perché il mondo si sta riorganizzando su aree regionali che hanno la funzione dei vecchi stati nazionali westfaliani. Interessante, questo è vero, questo è esattamente quello che sta capitando. Che il vero nostro problema è quello appunto delle potenze emergenti, tutta l'assetto che noi abbiamo realizzato dal dopoguerra ormai riconoscibile. C'è una domanda che ha posto anche Henry Kissinger in un suo libro recente, ma se è così, se queste aree regionali stanno sostituendo i vecchi stati westfaliani, l'Unione Europea vuole diventare un'area regionale, sì o no? E questa è una domanda centrale. Sì o no? Forse questa è la domanda che è al fondo di tutte queste crisi. E quindi non si trovano risposte perché ci facciamo le domande sbagliate. E perché pensiamo che possa davvero reagire a questi fenomeni in uno stato di pochi milioni di abitanti? No. L'Austria, che è più piccola, che andrà Ma allora della Lombardia? Allora, senatore Maran, mi dica, Che cosa vuol dire Renzi quando dice facciamo da soli? In questo quadro che lei ha disegnato e che secondo me è molto interessante, che cosa vuol dire facciamo da soli? Renzi dice molte cose, dice ovviamente spingiamo per un'interazione più stretta, ma ovviamente rimbocchiamoci le maniche, noi siamo in grado anche di reagire all'inerzia dell'Europa. In fondo questi referendum non fanno che denunciare la lentezza europea, il fatto che l'Europa sia meno forte degli anni 90, quando quei paesi europei sono entrati, ma allora questi non abbia risorse, ma allora ristagni. Ma allora questi 4 miliardi, 3 o 4 miliardi per la gestione degli immigrati forse dovrebbero naturalmente star fuori dal patto di stabilità. Dovrebbe essere uno sforzo condiviso, perché il paradosso del referendum ungherese è che avviene contro la decisione comune di aiutare Grecia e Italia. Esattamente. Cioè, ce l'hanno con noi. Ha ragione, ma insomma, noi abbiamo il dovere del soccorso, però cosa facciamo con queste decine di migliaia di migrati se poi erano solo di passaggio, prevalentemente di passaggio, invece questa nuova condizione geopolitica ce li fa tenere tutti? Tutte queste appunto difficoltà ci impongono di fare di più, ma in questo senso noi dobbiamo fare, ne parlava l'ambasciatore romano, ha ragione, è evidente che politica di sicurezza europea significa anche l'aiuto dai paesi terzi, quindi rinegoziare con la sponda sud del Mediterraneo alcune intese dove e come possibile, ma anche aiuto ai paesi terzi se vogliamo stabilizzarli. Naturalmente, che no, questa si ricorda la polemica, è la linea che sta emergendo. La fa ridere, certo. Messa così. No, è la linea che sta emergendo, è quello di aiutarli là dove stanno. No. Poi non si può mettere in discussione il nostro sostegno alla Tunisia, che è un esempio di successo, esatto. No, discutendo dell'olio d'oliva, insomma anche questo fa ridere. Sì, sostegno alla Tunisia, però mi scusi senatore, sostegno alla Tunisia, però le nostre navi da crociere hanno cominciato a saltare Tunisi per paura degli attentati, questo certo, forse non è un gran sostegno. Il sostegno italiano e comunitario, la stabilizzazione anche dal punto di vista finanziario della Tunisia è enorme e facciamo bene a farlo. Grazie senatore Ottozzani. 0024 0024, numero verde 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Durante la pubblicità riflettevamo con Mario Pietrangelo sulle cose dette anche da Maran alla fine, sì. E ci veniva in mente, è venuto in mente allora il tramonto dell'Occidente di Spengler, sì. E legato anche al libro di Kissinger che veniva citato, sì. E penso che faremo una puntata per raccontare chi ha visto prima le cose, le ha descritte e come il mondo di oggi invece sia cieco e rischia di andare contro un muro senza avere contezza di quello che capita. Abendland, la terra della sera. E intanto che cosa ci fai sentire oggi? Eccolo. C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo. È inesistente, hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. Allora? È l'attimo che non si ferma mai, quello di oggi, metropolitana. Si aprono le porte, la mano di lei lascia solo lui, inesistente. Il convoglio riparte, nessuno vede niente. Il cuore di lui riprende a battere lieve come un leopardo. In un attimo tutto di sfumature. Insomma, ha chiamato l'incantatrice. Ha chiesto di Sancho Panza con una domanda: ma la mastichiamo una vecchia rumba? Bella la vecchia rumba. Dancing. È un grande Paolo Conte. Certo, naturale. È la pentola tua, Mario. Che cosa bolle ci offre? Bolle. Che bolle ci offre? Bolle. Tanto un po' di musica. Come a scuola. Crazy Shades, quindi ombre nebbiose più o meno sarebbe. Però dai, non è male. Alessandro ci ha voluto contribuire anche dalla lui regia oggi alla nostra piccola playlist e che Giovanni, viene sempre più richiesta. Io voglio continuare il nostro dibattito, prendo giusto una bolla come chiodo per cercare, sì, di appendere con voi un quadro, perché Theresa May ieri alla vertice, alla riunione dei conservatori, ha cercato di delineare quello che è il piano della Brexit, che in fondo è, come dire, uno dei picchi sismografici di questa crisi della contemporaneità. Crisi, ricordo, è una parola di origine greca che vuol dire anche opportunità, apertura, quindi non è che per forza tutto quello che succede deve essere negativo, anzi. E insomma, la tappa è che a marzo 2017 verrà fatto scattare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, quindi comincerà lo sganciamento del Regno Unito, che dovrebbe compiersi nel 2019 in nome di quella che è stata definita da Theresa May la piena sovranità della Gran Bretagna. Sono parole sue, è un percorso lungo ovviamente, pieno di botole a sorpresa, ma c'è un fatto: la Brexit in realtà viene, come dire, è rallentata, non è ancora avvenuta. Mi chiedo anche come abbia fatto ad avere degli impatti nel documento di economia e finanza presentato dal governo, perché non ci sono neanche nel Regno Unito ancora questi effetti. L'economia inglese per il momento, anzi, quantomeno, va bene, tiene botta, quindi è un po' surreale che tutto questo venga invece messo ad impattare sull'economia italiana. Tu che cosa pensi? Io penso che il Brexit per l'Inghilterra sarà un successo, alla fine sarà un successo e trasformerà Londra nella vera capitale, il vero souk mondiale della finanza. Dico souk perché di ogni genere. una mia amica che si occupa di queste cose un giorno mi ha detto: rifaranno il Commonwealth. Non hanno mai smesso. È una persona che ha un certo acume. Cioè, torneranno gli imperi. D'occhio. Tornerà quindi l'impero britannico, tornerà l'impero persiano e tornerà l'impero russo. L'impero persiano, già all'influenza dell'Iran, certo. mi pare. Mi mi pare evidente sulla regione, non a caso si scontra con l'Arabia Quindi Saudita. Saremo multipolari. Multipolari. Però tutto questo, come vedete, è coerente con quello che abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione. Quindi, come vedi, appendere il chiodo, c'è un pensiero. Non è stato Salamino. Così male. Nuova identità del centrodestra cercasi. Tutti in piedi. Tutti in piedi. Il ragionamento qual è? Renzi fa la politica di destra. E la destra dunque, che ci sta a fare? Renzi ha pure copiato il ponte. Oh, Ernesto Galli della Loggia scrive da par suo un editoriale sul Corriere della Sera e dice: c'è una disparità eccessiva, non c'è un punto di vista alternativo a quello della sinistra progressista. E si apre un dibattito. Lui ha cominciato sabato scorso e oggi, che siamo arrivati a lunedì, questa benedetta identità si cerca. Io cerco la titina, titina, mia titina. Questa benedetta titina, di destra o di centrodestra che sia, appunto, come dicevi tu Giovanni, ha cercato di trovarla oggi Stefano Parisi sul Corriere della Sera. Ma la questione è complicata assai, perché Galli della Loggia sollevava un problema anche sull'assenza delle assenze, ed è appunto il tema dell'economia che dovrebbe essere il punto forte. Ma Stefano Parisi, oggi che attualmente è leader del nascente polo liberal popolare, la risposta la dà nella coda finale del pezzo e dice che bisogna essere laici, liberali, popolari, e intanto che Renzi fa una politica di destra, domanda che ci domandiamo, che si fa? Risposta: la destra che fa? Si fa copiare, perché Renzi arriva e copia, fa copia e incolla, prende il ponte, lo mette, ora prenderà tutto il programma del cavalier Berlusconi e lo farà, e il giornale oggi elenca ben 61 cose fatte da Berlusconi, ben 61 provvedimenti e riforme meravigliose, tra le quali la riforma Maroni per le pensioni, poi la legge Biagi, l'eliminazione dell'imposta di successione, il bonus bebè, la Bossi Fini, la patente a punti, il divieto di fumo. E se però insomma, tutto perfetto, ma il sempre informato Franco Bechis, in un suo spiffero su Libero di oggi, caro Giovanni, caro Mario, così spiffera, e cioè ci fa sapere che Stefano Parisi, che è incaricato della resurrezione del centrodestra, ha telefonato a Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, per cercare tramite questi chi? Gianfranco Fini. Oh, intanto che Renzi fa una politica di destra, la destra che fa? Va alla ricerca della fiamma perduta, si potrebbe dire, però no, ancora meglio, si scoprono le tombe, si levano i morti. Scoprono le tombe, si levano i morti. Povero Parisi. Dai, su, vedrai che farà qualcosa di meglio. Ce lo verrà a raccontare giovedì. 800 24 00 24, numero verde, è un compito durissimo. Il suo 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Il Parlamento ha testé decretato per il 3 ottobre la fine della Repubblica Democratica Tedesca. Il 3 ottobre del 1990, giorno della riunificazione tedesca, i territori dell'Est confluiscono in quelli dell'Ovest. La Germania è finalmente un paese unito. Un anno prima, il 9 novembre dell'89, in una notte storica, cadeva il muro che per 28 anni aveva separato tedeschi da tedeschi, spaccando in due non solo la città, ma l'Europa e il mondo intero. Il 19 dicembre dell'89 una folla immensa si raduna per ascoltare le parole del cancelliere tedesco. È un discorso memorabile. Il mio obiettivo resta, quando il momento storico lo permetterà, l'unità della nostra nazione, la casa Germania. La nostra casa deve essere l'obiettivo della nostra politica. È un momento storico di grande impatto emotivo che cambia vite quotidiane e scenari planetari. Nulla sarà più come prima. Era come se qualcuno avesse premuto l'acceleratore e la storia si fosse messa improvvisamente a correre. cipolla? Beh, pure Elvis mi hanno messo stamattina. Vabbè, sentiamolo un po'. Per dai. Nixon, De Pelvis. Allora, come va l'economia italiana? È una domanda che ci dobbiamo porre perché, come abbiamo visto, si lega a un sacco di cose. Escono i conti trimestrali oggi delle amministrazioni pubbliche, da tenere d'occhio perché comunque abbiamo visto come è cresciuto il debito pubblico negli ultimi 7 mesi, 80 miliardini, e vai con l'austerità, poi me la spiegano dove sarebbe l'austerità, ed escono i dati sul reddito e risparmio delle famiglie, nonché i conti delle società. È tutto molto importante se lo leghiamo invece non solo ai nostri piccoli o grandi fatti interni, ma alle vendite di auto negli Stati Uniti, perché noi siamo attaccati, come sapete in molti, alla Jeep di Marchionne, che certo. Si fa a Melfi, e guardate, c'è una cosa straordinaria che l'altro giorno guardavo: la regione che contribuisce di più all'export italiano è la Basilicata, perché c'è la fabbrica di Melfi. Questo cosa significa? Significa che noi dobbiamo, italiani, attrarre investimenti, non far scappare l'industria. Quando vengono sono utili e fanno produzione, di cui noi abbiamo un disperato bisogno. Nonché posti di lavoro, così, giusto en passant. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. BMJ, agosto 2016. Il vaccino anti-influenzale intranasale fornisce una protezione simile al vaccino somministrato intramuscolo. È tempo di vaccinazioni, soprattutto di vaccinazione anti-influenzale. Ricordo sempre che le vaccinazioni sono benefiche, sono fondamentali nei bambini per proteggerli dalle aggressioni di un mucchio di agenti patogeni, ma sono anche certamente importanti per gli adulti che vogliono mantenersi in buona salute e per gli anziani che vogliono prevenire problemi collaterali importantissimi come quelli dati dalla polmonite pneumococcica o dal fuoco di Sant'Antonio. Ricordo che queste due patologie sono oggi protette dal piano vaccinale recentemente varato dal Ministero. Concentriamoci sull'influenza e periodo di influenza. Non ci sono più scuse, perché molti dicevano che non facevano la vaccinazione anti-influenzale perché non sopportavano quella piccola intramuscolo che deve essere fatta per essere vaccinati contro l'influenza. È un aghetto che non va nemmeno dentro il muscolo, va praticamente sotto pelle, ma fa paura. Bene, c'è un'alternativa che è assolutamente equiparabile, che è la vaccinazione con il vaccino somministrato attraverso una specie di spray intranasale. Si è visto dopo 3 anni di follow-up che la vaccinazione proteggeva, perché dava lo stesso tipo, la vaccinazione intranasale, lo stesso tipo di successo della vaccinazione fatta con l'ago, e tutte e due danno una influenza solo nel 5% dei casi, il 95% viene così protetto. E quindi non ci abbiamo più scuse. E se proprio non vi va di fare l'iniezioncina, trovatevi la nuova vaccinazione intranasale. E per chiudere, Gloria Guerrera oggi cosa dedica a noi e a voi? Oggi una canzone del 1978. Questa è una storia di pigrizia per chi dalla mente fertile è però assediato dall'indolenza. È pieno di contraddizioni, non può migliorare. Ivan Graziani, Pigro. Ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro. Una mente fertile, dici, è alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza, pigro.